senza di Dio qui nel fiume. Danzerò, canterò, verserò il mio cuore davanti a te nel fiume del tuo amore. Danzerò, danzerò, canterò, verserò il mio cuore davanti a te nel fiume del tuo amore. Ascoltate cosa dice la parola di Dio. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come il cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. E in mezzo alla città, da una parte all'altra, nel fiume c'era l'albero della vita, e le foglie dell'albero erano per la guarigione delle nazioni.